Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno. Buongiorno. Potresti condurre tu oggi? Sì, e tu che cosa fai? Ma non so, leggo delle cose qua molto interessanti. Ho appena letto un articolo, per esempio, del carattere dei proprietari e dei cani, no? Che si dice sempre che tendono ad assomigliarsi, no? E questo anche nel tempo, cioè si sta scoprendo oggi che ci si influenza a vicenda. Ed è soprattutto il proprietario a subirne l'influenza dei cani. Allora, dicevo, io leggo queste cose qui, tu intanto conduci, ogni tanto intervengo, va bene? Va bene, allora inizio col ricordarvi che abbiamo parlato dei 10 punti del dottor Vaira, che aveva scritto anche nel suo libro Dritto al cuore del tuo cane, e vi rielenco di che cosa abbiamo parlato, così se volete ve li andate a riascoltare sui podcast di Radio24.it. Il primo punto era: abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Il secondo: lasciali abitare casa tua, non solo il giardino. Il terzo era: approfitta di ogni occasione per renderlo partecipe della tua vita. 4. Mettiti nei suoi panni e guarda le cose dal suo punto di vista. 5. Ricorda che soffre e gioisce come te. 6. Coltiva ogni giorno il vostro rapporto. 7. Fagli scoprire il mondo e conoscere altri cani. 8. Non punirlo. E 9. Che è quello di oggi: gioca, esplora e cresci insieme a lui, come dice nel famoso libro. Per chi ci stia ascoltando adesso, voglio dire, le ultime due settimane abbiamo avuto Igor Sibaldi con noi in studio, ci siamo divertiti con lui a considerare gli ultimi due punti, ma soprattutto abbiamo dato una rilettura a questi punti, che sono dei consigli sull'educazione del cane, no? O sulla relazione del cane con il cane per i proprietari. Ci siamo divertiti invece ad invertire i ruoli, cioè tu pensa se questi consigli fossero diretti al cane, no? Quindi dici al cane: abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Esatto. Oppure lasciali abitare casa tua, non soltanto il giardino. Sarebbe fantastico. Sarebbe veramente fantastico. Ci ha dato un bello spunto Igor, diciamo. Beh, sì, sempre. È stato molto divertente. Se volete riascoltarvi, tra l'altro, le puntate con Igor Sibaldi, come qualsiasi altra puntata, andate sul sito di Radio 24 a riprendervi i podcast. Sui podcast, su il programma Chiedimi se sono felice. E quindi il nono punto è: gioca, esplora e cresce insieme a lui. Che è un punto così particolare, come sai, che io ci ho scritto addirittura un altro libro. Infatti, cioè, ho detto anche questo. Tu stamattina non mi stai ascoltando. Ma come io ti ho detto che ero tutto nella nostra assorto vita personale. No, non è questo, non è vero. Cioè, no, perché voglio dire, poi mi dipingi come persona che non sono. Oggi però sono particolarmente introspettivo, riflessivo, che deve studiare ci le cose. Vuoi spiegare che cacchio vuol dire gioca, esplora e cresci insieme a lui? Che vuol dire? Ma cioè, secondo te che cosa vuol dire? Allora, gioca, si capisce. Sì. Allora, gioca è perché il gioco, tra l'altro noi ce ne dimentichiamo sempre di giocare. Cioè noi cresciamo a un certo punto io e no. Il massimo che riusciamo a fare è scherzare. Tu sai o fare che io battute. No. Io so che tu invece ami giocare, no? Esatto. Quindi questa infatti è una cosa che a me di te è piaciuta moltissimo. Dobbiamo ricordarti ricordarci di giocare anche con il corpo. Cioè il cane è un invito non soltanto allo scherzo, alla battuta, al ridere assieme, ma anche al rincorrersi, anche alla lotta. Anche noi ci rincorriamo nudi per casa, amore. Sì, io scappo, capito? Esatto. Vieni qua, dove vai? E vabbè, come natura ci ha fatto, stiamo parlando di animali, sì, di natura, certo, è la nostra parte animale selvaggia, no? Che si fa sentire. No, perché mi sono immaginata la scenetta, mi fa molto ridere. Ecco, che non ti vengano idee strane. Però comunque, allora, dicevamo, giocare con il cane significa che il cane ti richiama anche usare il corpo, perché il gioco deve essere anche calato nel corpo, non è soltanto qualcosa di mentale. Perché ancora continui a ridere, cioè non lo so io. No, sono serissima. Guarda che io sono serissima quando rido, Angelo, Poi il secondo consiglio è esplora, no? Esplora che cosa? Non mi posso rifare il gesto che Rosita ha fatto, però potete immaginarlo. Il regista e la nostra grande, come si dice, redazione Miriam, Peter e Miriam sono scoppiate a ridere. Io non ho fatto nessun gesto, è bastato uno sguardo. Certo, non hai fatto nessun gesto con la mano sinistra, hai fatto indicando verso il basso. Vabbè, non buttiamo in vacca la trasmissione. Capito, devi cominciare tu però a non buttarla in vacca, non lo so io. E mi aiutante ha detto la stronzetta giornalista. Ecco. Allora, Allora, esplorare significa che spesso i cani non li portiamo in giro, guardano troppo, cioè, la televisione. La televisione, esattamente, sono troppo chiusi in casa, fanno sempre i soliti percorsi, vanno sempre al solito parchetto e invece devono andare in giro almeno una volta a settimana a vedere posti nuovi. Esatto. La domanda che noi ci dobbiamo fare è: quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto una cosa che non avevamo mai fatto prima? Capito? Che film ha visto l'ultima volta il nostro cane? No, comunque adesso non hai capito una minchia proprio. Allora, il cane non deve vedere il film, deve vedere posti nuovi, deve vedere cani nuovi, deve fare giochi nuovi come noi. Deve vedere perché questo nuove. Predispone la mente ad essere più curiosa, flessibile, adattabile, che è la prima qualità di un animale felice, compreso l'essere umano. Amore, stai sudando, com'è? Non lo so, perché ho il maglioncino in più, adesso ve lo tolgo. Comunque, perché tu mi fai incartocciare e devo recuperare la situazione. Sì, incartocciare. Lo faccio apposta perché piace metterti un po' in difficoltà. Ecco. No, di base c'è questo, che adesso grazie al mille. Di là, a parte sei le scherzi. Sei veramente magnanime. Grazie, magnanime. Sei veramente magnani. Ascolta, Anna Magnani. No, volevo dire, tutto questo fa sì che poi anche noi ci disciuliamo dai soliti vecchi schemi, da girare intorno sempre alle stesse abitudini. Quindi in questo il cane ci aiuta molto, come esattamente. Tantissime. Cioè basta rincorrervi nudi per caso, fate anche altro. No? Esatto. Ecco, poi c'è l'ultimo punto che... cioè sempre il nono punto e poi cresce insieme a lui, perché il gioco, perché hai detto già l'ultimo punto, ma punto cosa stai prossimo? Dicendo il nono punto è formato da gioco, cresce insieme a lui scusate. perché il gioco, l'esplorazione è un modo per esplorare se stessi e quindi crescere. Esatto. Ecco, cosa stavi dicendo prima? No, era Peter che mi stava distraendo. No, prima che io, che dicessimo questa, che completassimo. Chi se lo ricorda che cacchio stavo dicendo, capite? Prima? Capite? Perché io sudo sette camicie qua per portare avanti questa trasmissione. L'allero, ma adesso la porta avanti lui. Comunque ragazzi, non distraetevi, perché noi ridiamo ma siamo concentratissimi e siamo sul punto sempre. Infatti, cos'è che stavi dicendo? Che guarda, c'è che sono stufa. Esatto. Guarda che non ne posso più, non ne posso più. E siamo passati da Lino Baffi a Sandra Mondaini. E con questo rimanete, ecco, lì. Rimanete che con noi, che parliamo del carattere dei proprietari dei cani che si influenzano la vicenda. E avremo con noi Marina Ripa di Meana. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Hola. Allora, abbiamo un articolo veramente molto bello che poi, sai, nessuno meglio di te, caro Vaira, potrebbe... Caro Vaira, nessuno meglio di te. Caro Vaira. Vaira, dove sei? Vaira. Così stamattina hai bevuto, però. No, non ancora. Pensa che danni posso fare. Allora, il titolo di questo articolo interessantissimo è... È vero? È vero? Due punti. È vero, due è punti. Vero. Dai, cani e proprietari hanno lo stesso carattere. Okay. Allora, si dice che padroni e cani condividano caratteristiche simili, si è sentito dire spesso, no? Addirittura il film La carica dei 101 di Walt Disney, che io amo la follia, all'inizio quando Pongo guarda dalla finestra, vede passare dei proprietari con il loro cane al guinzaglio, sono identici. Sono identici. Un po', tra l'altro, quella tesi è stata ripresa da Stanley Coren qualche anno fa, parliamo dei primi anni 2000, nel suo libro Cani e padroni. Edito in italiano, se non mi sbaglio, da Mondadori. Potrei sbagliarmi, ma insomma, è un libro vecchio. E lui aveva proprio questa tesi, cioè chi si somiglia si piglia. Esatto, ma questo succede adesso anche fra esseri umani e cani, giusto? E lui lo diceva a proposito proprio di esseri umani e cani. Ah, ecco, punto. Cioè è su quello che lui aveva costruito quella tesi. Ora, quello che è stato scoperto da questa, in questa università, la ricerca è citata su questa rivista che si chiama Rivista Natura, no? È che secondo questa università, non soltanto secondo questa ricerca, non è che noi ci prendiamo a seconda di quanto ci somigliamo, non è questo quello che ha analizzato. Ha invece visto che ci si influenza a vicenda man mano che si vive assieme. Questa è la scoperta. Posso dire una cosa, che magari i neuroni specchio c'entrano qualcosa? Potrebbero okay. Assolutamente, perché qua si tratta poi di una sorta di passaggio di emozioni, no? Sappiamo che le emozioni si comportano come dei virus, sono contagiose, così come lo stress. E in effetti i cani sarebbero il riflesso delle ansie e delle negatività dei padroni. I cani sono... Cioè, che vuol il dire? Cioè, se tu sei negativa, ansiogena, stressata, questa cosa la trasmetti al cane. Certo, la simila. Difatti i miei cani stanno da Dio, sono favolosi perché sono perfetta. Gli studi mostrano che all'interno della diade, cioè della coppia, no, cane proprietario, a essere maggiormente influenzati dal carattere dell'altro sono gli umani. Cioè, noi esseri umani siamo più influenzati dai nostri animali che loro da noi. Ah sì? Sì. Beh, questo sarebbe fantastico, no? Eh sì. Allora... Però, scusa... Sì. Quindi qual è la verità? Sono loro essere influenzati da noi o noi da loro? Entrambi, ma maggiormente noi da loro, stando a questa ricerca. E tu, secondo le tue esperienze, i tuoi studi e tutti i tuoi 20 anni vissuti vicino ai cani di tutti i tipi, che cosa pensi che sia la cosa più... chi influenza di più? Guarda, questa ricerca si rifà a livelli di cortisolo, no? Che è l'ormone classico associato allo stress. Secondo me ci sono altri fattori. Noi condizioniamo pesantemente la vita dei cani, in peggio a volte e altre volte in meglio, quindi non è soltanto una questione di carattere. Quindi la mia esperienza si rifà al fatto non soltanto del carattere del proprietario, ma anche al fatto che tu nel cane determini quando esce, che cosa mangia, se deve giocare o no, e questo ne influenza potentissimamente l'umore. Allora, se poi è vero che noi siamo quelli più influenzati, dobbiamo tenere presente che trascurando un cane e rendendolo un cane problematico, triste, stressato e via dicendo, noi stessi poi diventa un circolo vizioso. Eh sì, noi stessi ne veniamo influenzati da quello stress lì. Quindi se noi fossimo aperti a farci influenzare da loro, istintivamente loro ci influenzerebbero solo che bene. Non è detto, se tu hai un cane nevrotico ti... Ma se il cane diventa nevrotico perché sono nevrotica io, no, come è nato prima l'uomo, la gallina, no, siamo da capo a 12. Ma allora, grazie della domanda, cara Rosita Celentano, perché allora il risultato, il carattere di un cane o il suo umore, diciamo così, la sua personalità, sono la risultante di diversi fattori. Uno di questi siamo noi, cioè il nostro carattere. Okay. Altre cose sono la genetica, cioè che cosa quel cane si porta dietro, per cui un border collie avrà un carattere differente rispetto a un mastino napoletano, no? Un bassotto avrà un carattere differente rispetto a un levriero afghano, no? Sì. Questo tendenzialmente, perché ci sono delle tendenze comportamentali, caratteriali di razza. Queste poi vengono a sposarsi con lo stile di vita che il cane ha, e questo dipende da quello che noi scegliamo, da come noi scegliamo di farlo vivere, e poi dalla nostra personalità. Quindi ci sono almeno questi tre fattori interdipendenti che causano poi la personalità del cane. Appunto, allora com'è possibile che siamo noi essere più influenzati di più da loro, al contrario? Sì, allora qua ti leggo meglio la ricerca, così è più chiaro. Allora, hanno analizzato 5 tratti della personalità: estroversione, sì, apertura, però i nostri ascoltatori, sì, lo so. No? Estroversione, l'apertura a nuove esperienze, la consapevolezza, la piacevolezza e la nevrosi. La ricerca, che è stata condotta su oltre 100 coppie, ha mostrato un interessante effetto specchio. Da una parte i proprietari si sono influenzati in maniera positiva dal carattere gioioso del proprio animale, dall'altra gli umani stressati trasmettono le loro preoccupazioni ai quattro zampi. Hanno misurato i livelli di cortisolo e la frequenza cardiaca, e ne è emerso che la percentuale di cortisolo nella saliva dei cani varia in base alla personalità del proprietario. Pensate. Allora, che cosa vuol dire? I cani di padroni nevrotici hanno fatto registrare una percentuale più bassa, segno che non riescono a far fronte a situazioni più particolari, di particolare stress. Poveraccio, sto pensando a tutti i cani di persone nevrotiche, ecco, quindi conosco. Capisci che ha senso, sai che io ogni tanto dico ai proprietari: fai un corso di yoga, di meditazione, sì, e via dicendo, cioè fa qualcosa per crescere tu per primo. Cioè, il primo capitolo del mio libro, di cui stiamo leggendo queste pillole, no, ogni giorno, è una crescita comune, cioè percepirsi in un percorso che si fa insieme al cane. Non è il cane che deve cambiare, noi abbiamo una grossa opportunità grazie a questa relazione di evolvere noi come esseri umani. Facciamo favore, esatto, noi stessi e ai nostri animali. Tu pensa questo trasferito nel rapporto genitore figlio è un massacro, capisci? Però insomma, vabbè. Allora, che cosa si fa se il cane è troppo stressato? Allora, abbiamo un altro... Che succede? Volevo chiedere a Peter... Quanto manca? Cosa? Sì, 6 minuti. Ok, benissimo. Allora, abbiamo un soccorso per gli animali. La gente forse non lo sa, però gli animali hanno capacità di curarsi con erbe officinali. Esatto, che è fantastico. Cioè, che io hanno diversi modi, in realtà. A volte usano anche insetti, oppure insetti che come si dice, emettono delle particolari sostanze, come per esempio degli antiparassitari. Ci sono queste scimmie qui, adesso non ricordo come si chiamano, che maltrattando degli insetti, questi secernono una sostanza repellente, loro se la spalmano addosso e questo diventa un antiparassitario. Allora, questa scienza si chiama zoofarmacognosia, cioè la capacità da parte... Zoofarmacognosia. È inutile che lo leggi nell'articolo perché te lo dico io e non c'è scritto su questo articolo. Ah, vedi come sei bravo, sei erudito. Mo, dai, l'udito. Dove te lo metto? Allora, anche gli animali si curano con le erbe. Questo è l'articolo di etologia preso da, sempre rivista Natura. Sei data da fare su questa rivista qui, grazie. Allora, zoofarmacognosia è proprio questa scienza che studia il modo in cui gli animali si curano. E qui ci sono diversi esempi. Non so se stai leggendo. Sì, beh, io curo già i miei cani con l'omeopatia. Per esempio, il chihuahua che ha... No, questa non è omeopatia. No, eh? Però qui stavo leggendo che usano ancora... Dice, tra l'altro, come la... Dice, tra l'altro, secondo la tipica logica omeopatica del simile cura il simile. Sì, vabbè, vai. In un caso particolare. No, questi sono proprio rimedi naturali. Quindi, per esempio, uno degli esempi che fa è il tordo per... si mette a cercare il... giusquiamo nero, che non conosco, la prima volta che leggo, per avere l'antidoto al veleno dopo aver mangiato il ragno crociato, che siccome è un ragno velenoso allora poi deve prendersi l'antidoto, capito? Mentre invece le cicogne cercano l'origano come medicina. Invece i corvi, le taccole, che non so cosa siano, pernici e ghiandaie malate si purgano mangiando le foglie verdi dell'alloro. Vedi? Una pianta cercata anche dai polli allevati liberi. Beh, pensa, fantastico, te, capisci? Quindi quando noi diciamo la nostra ricerca di, cioè siamo tentati di pensare che l'animale si cura soltanto attraverso il digiuno e il riposo. Certo. No? E quindi noi possiamo dire, no, facciamo come fa la natura, anche noi curiamoci con il riposo e il digiuno, esatto, perché esatto, ci viene di mangiare un po' meno, no, quando siamo ammalati, no, perché l'organismo non debba fare troppa... Ma sai, quando io leggo articoli come questi mi sento che sto cercando di intraprendere la strada sempre più giusta, no, perché io sono del parere che la natura, noi siamo... Insomma, il sistema mondo e universo nasce come un sistema perfetto e abbiamo tutto sotto gli occhi, non bisogna solamente ricominciare a capire, a studiare, a sapere l'importanza. Perché quando leggo come qui che dice le gru a quanto pare cercano invece i germogli dei giunchi, mentre anatre, oche e molti altri uccelli acquatici si curano ingerendo l'erba siderite, che in Toscana è chiamata dal popolo erba della paura, dal momento che veniva usata per mitigare tutte quelle sensazioni di agitazione e ansia caratteristiche dopo piccoli o grandi shock. Cioè, capisci che gli animali sono più avanti di noi, quando noi dovremmo veramente osservare la natura e capire perché. Sì, se non altro, indipendentemente dal fatto di chi sia più avanti e chi più indietro, ci fa capire quanto servirci dei rimedi, almeno naturali, sia una cosa che fanno anche gli animali, quindi è perfettamente contemplata, no? E ci fa capire poi, tra l'altro, anche la grande intelligenza del mondo degli altri animali, no? Infatti. Invece c'è l'erba gatta, che è una pianta amatissima dai felini che arrivano anche a masticarla. Recenti studi hanno infatti confermato che questo vegetale contiene vitamine, minerali, oli essenziali e soprattutto il nepetalattone, che non so cosa. Una sostanza che sembra essere la principale responsabile degli effetti sull'animale, fungendo da vero e proprio fenomeno del gatto, il cui odore viene percepito tramite gli organi vomeronasale. Adesso qui diventa complicata, ragazzi. Attraverso l'olfatto, diciamo così. Okay. Ecco, i gatti amano anche la valeriana, no, per esempio. Molti animali, tra l'altro, ci si rotolano dentro. Insomma, quanta saggezza c'è nel mondo degli animali. Numularia, erba dei serpenti, perché i rettili se ne nutrirebbero per guarire addirittura dalle ferite. Ragazzi, ce n'è per tutti. Guarda, ci sono articoli interessantissimi. Però adesso Peter si sta sbracciando dalla parte là per dire che dobbiamo dare un attimo la voce alla pubblicità. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Poi ce l'è andata, mi ciondoli un buco. Ti ciondolo perché c'ho Euforia che è qui che vuole salire. Perché dovete sapere che con noi c'è Euforia, come sempre, che qua passeggia sul bancone. Euforia da, è ormai grande attrice di teatro, perché recita nel ruolo di Tutù, ovviamente. Si acchiappa l'applauso più forte. Arriva sul palco. Allora, a proposito di grandi personaggi, abbiamo con noi un personaggio speciale. Ed è con noi Marina Ripa di Meana. Marina, carissima, eccomi qua. Sono qui. Come stai intanto? Io sto bene, con qualche acciacchetto, c'è un po' di raucedi, ne sentirete, ma male, insomma, di stagione. Invece sembra assolutamente la tua sempre bella voce limpida. Ah, vabbè, un po' di maletti di stagione, ma per il resto bene. Allora, qualche giorno fa Rosita mi ha detto: oh, ma lo sai che abbiamo? C'è Marina Ripa di Meana, così possiamo parlare con lei delle sue battaglie. Però io non so, per esempio, se tu hai cani adesso in casa. Sì, certo. Quattro cani adorati. Che sono la mia vita, la tua vita. Ma perché dici così? Perché la gente dice sono la mia vita, secondo te? Perché guarda, io ho passato dei momenti anche difficili, come tutte le persone che hanno anche una certa come me, e te posso dire che momenti difficili li ho sempre superati per la gioia, per l'allegria e per l'amore di questi cani. Loro sono sempre presenti, sono meravigliosi solo a guardarsi. Adesso che ti parlo, magnifico, mi guardano da sul giardino. Perché ti amano in modo incondizionato, come gli uomini non sanno fare. Ma solo l'allegria, capito? I momenti in cui tu arrivi a casa e questi li vedi e li guardi, come reagiscono. Un rientro a casa senza gli animali, poi. Ti regalano l'armonia della casa, della vita. Accolgono loro, non ti accoglie nessuno. Poco fa leggevamo di una ricerca in una università che diceva che noi siamo facilmente influenzabili dalla gioia dei nostri cani. Quindi vedi che tutto torna, ci stai dando conferma. Guarda, nei momenti anche più difficili, ti posso raccontare un momento in cui veramente non stavo bene perché avevo avuto un'operazione per un tumore al polmone. Wow. Subito dopo non stavo proprio bene, insomma ero anche abbastanza avvilita perché questa notizia era arrivata così da un momento all'altro, stando io in apparenza benissimo. Mi sono rimessa in forza perché la cagnetta mi ha partorito, una delle mie cucciole, mi ha partorito su una gamba, su un piede. Ma dai! Sì, è una cosa meravigliosa, era incinta e c'era una tavola della tavola da pranzo, sai, una tavola coperta, e io ero seduta a fare colazione e la piccola mi ha... Ah, tu non ti eri accorta, è venuta lì a mettersi vicino a te. Quindi si è messa e mi ha scosso, io ho sentito un caldo che mi cadeva sulle ginocchia, sulle caviglie. E mi è stata un'emozione così grande. Poi da allora tutta la cura, ne ha fatti 8 di canini piccoli. È stata una cosa talmente meravigliosa. Ma ne hai tenuto qualcuno? No, io li do via, li do a amici, in modo che li possa, amici anche fidati, controllare, fidatissimi. Senti, ma come mai i carlini, che cosa hanno di speciale? Visto che c'è qui Angelo, che è un esperto anche di cani, che carattere ha il carlino in modo particolare? Guarda, i carlini sono i cani più affettuosi del mondo. Naturalmente a me piacciono tutti i cani, io sono pazza dei cani, delle bestie, degli animali tutti. Le bestie non chiamiamo le bestie, perché le bestie siamo noi. Come, esatto, però di tutti. Però io nei carlini ritrovo un'allegria, una fantasia, un amore incondizionato, una dolcezza, e con questa faccia così ridicola. Il cane preferito di papà, quando papà vede le foto dei cani e cani in giro, dice sempre: oddio, che simpatico questo, è sempre stato colpito dal carlino, ho sempre detto prima o poi glielo regaliamo. Salutiamo Adriano e diciamogli che lui è grande in tutto, anche nei suoi gusti. Vedi? Certo. Subito, servito su un piatto d'argento. Esatto. Senti, ma tu cosa stai facendo adesso, Marina? Allora, io adesso sto facendo la promotion per andare in giro, e per questo anche un po' raffreddata, come vedi, perché si pigliano un po' di malanni. Eh sì. sto facendo la promotion per questo mio libro che si chiama Colazione al Grand Hotel. Che tu quanti Moravia. Libri hai scritto oggi? Quanti libri hai scritto fino ad oggi? Ne hai scritti un po'? 13. Wow! Partendo da Accidenti. Quello noto, i miei primi 40 anni. 40 anni che adesso stanno ristampando a puntate, vedo su una settimanale nazionale popolare che si chiama Di Più. Sì. Però ti volevo parlare di questo che si chiama Colazione al Grand Hotel. Sì. Moravia, Parise e la mia vita e la mia Roma perduta, hai capito? Ah, bello. E poi a questo proposito, sempre per tornare sui cani, in questo libro racconto dell'amore proprio di Parise per un suo cane che si chiamava Pepote. Lui l'ha amato Pepote. Lui lo ha amato alla follia. E praticamente era un cane che quando tu andavi a casa sua, pensa che cosa curiosa, lui ti faceva delle grandi feste quando arrivavi, no? E poi non era te ne dovevi andare. Se te ne andavi, bisognava chiuderlo in una camera perché sennò ti mordeva. Come fa il mio chihuahua, Su Chihuahua spesso fa così. Sui saluti inizia a mordere i polpacci le persone. Devi andare. Io non l'avevo mai letta come che non si dovesse andare via. L'avevo letta che gli dava fastidio che si avvicinavano a me per salutarmi. Ma pensa che cosa curiosa. È possibile. E poi c'è un momento molto commovente nel libro in cui Parise è molto malato, si sta ritirando su in Veneto perché sono un po' gli ultimi periodi, insomma. Uh-huh. E Pepote sente che è un po' così, si vede, si rannicchia tutto, comincia a essere un po' triste. Un giorno sparisce. E allora c'è una telefonata che lui mi fa nel libro in cui mi dice: sai, io sono disperato, perché molto più disperato per la mia malattia perché Pepote è andato via. Per me è una cosa che più drammatico l'evento che la malattia. Ma scusa, non l'ha più ritrovato poi? No, ascolta, allora lui è stato si è colpevolizzato, pensa, che dovendo star dietro alla malattia, avendo insomma tutto un momento di tutte le persone che gli venivano indietro per la malattia di questo grande scrittore, lui non l'avesse più guardato tanto, considerato tanto, e il cane se n'era andato. Questa è stata la sua lettura di questo, certo. Ma non si è mai, insomma. Però dopo un po', invece, quando lui considerava che il cane era perso, il cane è stato ritrovato da un compaesano e gliel'ha per fortuna riportato a casa. Che ti sembra un po' la commedia che sto facendo io, Qualche volta scappano, che è la storia di un cane che abbandona la coppia e a un certo punto ritorna, ma non sapranno mai per quale motivo. E loro se dicono: ma noi l'abbiamo trascurato, Ci facciamo anche noi le stesse domande, come si è fatto. Ma se ne fanno tutti, cioè quando il cane va via. Ci colpevolizziamo quasi, perché diciamo, vero, perché diciamo: ma perché dei cani così affezionati? E invece probabilmente chissà. Poi c'è un altro episodio anche molto carino, Rosita, in cui io rispondo a Goffredo, sempre nel libro, dico: anche a me è successa una cosa simile, lo sai perché? Perché a un certo punto un mio ammiratore, penso bene, ero molto giovane, una ragazza abbastanza belloccia e ci avevo molti ammiratori. Sei tuttora belloccia comunque. E pretendenti. Allora pensa che questo per un compleanno, pensa bene, di mandarmi una bancarella di fiori. Allora sta bancarella. La bancarella fantastico. Con tutti i fiori. E portandola via, non so, da Piazza di Spagna, non so da dove. Però questa bancarella, io abitavo in una casa con un giardino, non entrava dalla porta normale. Si è stato tutto una specie di levare cancello. Una fischia, che bancarella enorme. Enorme, non passava. È stato uno sconquasso in questo giardino per farla entrare. Avevamo tutti lì che passa di qua, passa di là. Insomma, la canetta se n'è andata. È passata in mezzo e se n'è andata. Secondo me pure lei è schifata del fatto hai capito che nessuno se la filava, tutti abituata a essere lei il centro dell'attenzione della vita di tutti noi in casa, tutti in quel momento ci filavamo i fiori che arrivavano. Ma è tornata poi? Beh, senti questa, un giorno dopo al giornalaio dove avevo compravo i fiori, i giornali tutti i giorni, mm-hmm. all'edicola del giornalaio, e me la vedo lì con le zampette che guardava e aspettava. Perché lei sapeva che io andavo lì a comprare il giornale, dice prima o poi questa deve ritornare. Bene, guarda che belle storie che ci ha raccontato Marina, ci ha fatto molto piacere. Allora, come si chiama, se uno vuole leggere queste storie di vita vera vissute da Marina Ripa di Meana, come si intitola il libro? Colazione al Grand Hotel, Moravia, Parise e la mia Roma perduta. Naturalmente è la storia di quegli anni di Roma, di questi due scrittori che venivano a fare colazione da me. Anche se io, e poi nel dietro del libro c'è scritto, vivevo al Grand Hotel ma non avevo una lira in tasca, perché a Roma a quegli anni si poteva fare questo e altro. Erano bei tempi, hai vissuto dei bei periodi. Erano anni in cui Roma ci si inventava la vita. È vero, è vero. Senti, grazie di essere stata con noi oggi. Io ti aspetto l'11 o il 12 o il 13 aprile a Teatro a Roma al Quirino, Me l'ha detto Andrea, difatti, sì, verrò senz'altro, sarò lì, considerami già lì. Bene, un abbraccio grande. Grazie, Marina. Grazie Marina. Buona domenica. A tutti gli ascoltatori, arrivederci. Ciao Marina, un abbraccio, ciao. Quante storie, non le abbiamo chiesto ma come è nata questa sua passione per gli animali, eccetera, eccetera, sarà per la prossima volta. Possiamo richiamare un'altra volta. Allora, adesso un break, ci troviamo subito dopo. Tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ed eccoci qua. Stamattina ho esagerato con la cioccolata. Con la cioccolata, perché cosa fa? Cioè, è ricaduta in un suo vecchio schema, Rosita. Esatto. Cioè, per tirarsi un po' su, mangia qualcosa di dolce. Che poi, come sappiamo, c'è la botta di insulina e te lo ributta giù. Mangio il tiramisù. No, allora, ma devo fare colazioni salate, come dice il grande professor Berrino, che oramai seguo in tutto e per tutto. Allora, volevo dirvi di una mail speditami da un conterraneo. Come conterraneo? Da un conterraneo. Ma che dici che tu sei di Bari? Conterraneo. Allora, praticamente abbiamo una richiesta d'aiuto da parte di Giorgio Trotter, che già dal cognome uno capisce che è pugliese, esatto. Che abita a Bologna, ma ha un progetto molto, molto particolare molto con il suo cane che sogna di adottare. Che ancora non ha. Pronto? Ciao. Ciao Giorgio, allora Giorgio Trotter, svelaci quindi le tue origini, che io ho immaginato essere del pieno sud. Sì, certo. Certo, no, allora le mie origini sono bolognesi da sempre, il cognome viene da Bolzano. Uh-huh. Ah, ecco. Per cui c'è questa, mi porto dietro questa cosa che fa partire appunto a mondi molto lontani della mia famiglia, perché anche mio padre e mia madre erano bolognesi, quindi... Ma scusami, tu hai questo cognome, però avrai il sangue che è il sangue delle Dolomiti, perché tu sei volontario al CAI. Ero sulla Marmolada anche questo weekend. Vedi? Vabbè, Angelo è molto appassionato di montagna. Io e Angelo ci siamo assemblati molto bene, perché siamo una coppia non solo nel lavoro ma anche nella vita. A lui piace la montagna, a me piace il mare. A lui piace meditare, a me piace far casino. A lui piace andare a letto presto, alzarsi presto. A me piace andare a letto tardi, alzarmi tardi. Quindi uno dice che cacchio ci fate assieme. Esatto. Che siamo complementari, quindi gioiamo di più cose, esatto. Del doppio delle cose. E quindi per quello, no, dicevo questo perché quando ti ha sentito che sei stato nel Dolomiti ti ha invidiato moltissimo. Bellissimo. Capito. Anche allora, se io poi ho un'esperienza di 30 anni come istruttore subacqueo. Vedi, tu sei complementare da solo con te stesso. Sì, mi autocomplimento. Ti autocomplimenti, che negli fantastico. Negli ultimi 10 anni sono passato dall'acqua alla montagna. Ecco, allora, vedi. Caro Giorgio, appassionato di montagna, volontario del CAI di Bologna, tu hai un sogno particolare che coincide con un momento particolare della tua vita. Ce lo racconti? Allora, io il 1 febbraio del 2019 cesserò la mia attività lavorativa. Okay. Sono una di quelle figure che vengono aiutate a finire gli ultimi anni, come si dice, no? Nel senso che non so se sono un esodato o qualcosa di particolare, comunque non è molto importante. Da quella data, anzi pochi mesi dopo, ho intenzione di fare un lunghissimo viaggio, no? Partendo da Bologna, arrivando fino sull'Atlantico. Wow. A piedi. Quanti chilometri sono? Credo 2000 e qualcosa. Fantastico. Caspita. e quindi proprio perché in parte non sono coraggioso, in parte perché sono convinto che si faccia molto meglio in compagnia, quale è la miglior compagnia di un cane. Pienamente d'accordo. Ho scritto ad Angelo per chiedergli come affrontare in tempo il percorso per arrivare a quella data pronto. Io il cane non ce l'ho, l'ho avuto quando, ero, quindi, quando ero un bambino, ho avuto un boxerino. Quindi per chi ci stia ascoltando, io so che molti cinofili sono, hanno questo sogno del cassetto, cioè partire e andare col proprio cane. Alcuni sì. si immaginano con una slitta, una muta di cani in Antartide, altri invece sognano di poter fare, che so, il Cammino di Santiago piuttosto che... Ma infatti parte di questo percorso prevede il Cammino di Santiago. Ecco, vedi, e di farlo magari con il proprio gli cane. Gli Appennini bolognesi. Una parte prevede tutto l'alta via dei Monti Liguri. Ma solo? Solo tu e il tuo cane? Sì. Allora, a piedi. Cominciamo subito, andiamo alla ciccia, perché Giorgio dice: ma che cane prendo, di che razza, oppure un meticcio, ok, ma di che taglia, di che età e via dicendo. Allora, innanzitutto, quando uno parte per un viaggio del genere deve comprendere un paio di cose fondamentali. Uno, che non soltanto il cane gli farà compagnia, sarà un alleato giusto, ma sarà anche, avrà anche la responsabilità di questo cane. Per cui quando dovrai trovare riparo, quando incontri gente e via dicendo, ti dovrai anche chiedere se il tuo cane è in pericolo piuttosto che no. Quindi insomma è una bella responsabilità anche questa. Bisogna esserne soltanto coscienti, non è che l'avventura deve terminare per forza qua. Poi tu mi chiedi che età deve avere il cane. Non capisco perché tu mi dica almeno 5-6 mesi, ma intendi per partire? No, 5-6 mesi pensavo che non un cucciolo. Come mai? Ma io una volta ho visto un tuo filmato con scritto mangiare con cura. Maneggiare con cura. E ho detto, adesso provo a maneggiarlo con cura. No, il 5-6 mesi come indicazione, ma non ho nessuna. Allora, l'adozione. Nessuna esperienza. Diciamo così: l'adozione perfetta viene fatta quando il cucciolo vive con la mamma per un paio di mesi e dopo lo adottiamo noi. Questa è l'adozione per 2 mesi, 2 mesi e mezzo, dopodiché lo adottiamo noi. Lo adottiamo noi a quell'età perché finché non cadono i denti da latte, che cominciano a cadere attorno ai 4-5 mesi. Il cane deve fare esperienza del mondo, quindi soprattutto un cane che poi dovrà seguirti in questo viaggio, che quindi vedrà persone, auto, luoghi nuovi e via dicendo, deve sviluppare una certa adattabilità. Ma io volevo chiedere, ma non è meglio che lui prenda il cane, ci vive un po' normalmente a casa e poi dopo parte, invece che prenderlo e partire subito? Esattamente, questo è l'altro aspetto particolare da considerare. Il viaggio è lungo e non è adatto a tutti i cani, quindi deve essere un cane piuttosto leggero, non troppo pesante, e deve essere un cane già adulto. Cioè è meglio che tu non cominci a fare questo viaggio con di così tanti cuccio, chilometri. Quando lui ha ancora 6 mesi, dovrebbe avere almeno un anno, insomma dovrebbe essere già strutturatino. Meglio addirittura se 2, quindi comincia ad essere già in ritardo, mio caro Giorgio. Quindi devi iniziare ad adottare il cane adesso. Devi cominciare sì, ad adottarlo. Sì, perché il cane adesso deve conoscere le tue abitudini, deve diventare proprio il tuo compagno, deve fidarsi di te, deve conoscere il tuo odore, sapere, insomma, dovete crescere un po' assieme prima di iniziare quello un cammino. Quello non è così tanto necessario. Cioè io posso incontrare un cane oggi e tra un mese essere così affiatato con lui da poter fare già questo viaggio. C'è stato addirittura chi, correndo una maratona nel deserto, andremo a riprendere quella notizia, ha incontrato un cane che l'ha seguito per tutta la maratona e poi se l'ha adattato. Ah vabbè, ma quella è un'eccezione, sono casi. Sì, però è possibile farlo. La cosa più importante invece è proprio l'apparato scheletrico, la muscolatura che potrebbe risentirne, quindi tutte le cartilagini eccetera che sono in crescita per un cucciolo di 6 mesi, insomma andrebbe evitata questa cosa. Il cane deve avere almeno un anno, meglio se un anno e mezzo, 2 da quel punto di vista. E poi deve essere un cane piuttosto dalla struttura piuttosto leggera. Voglio segnalarti un libro che si chiama Io e Shira, scritto da Gianluca Ratta, che ha il Guinness dei primati per la persona che ha fatto un viaggio con il proprio cane per tantissimi chilometri. No, è un husky. Shira è un husky femmina e lui ha girato tutta l'Italia, da tutte le coste, poi ha fatto anche dei paesaggi all'estero. Ho cercato anche di contattarlo, Gianluca, ma purtroppo non siamo riusciti ancora a metterci in contatto. È un libro del 2010 edito da Rizzoli, te ne consiglio la lettura, Giorgio, molto bello. Okay. Ti servirà per prepararti. Ma quindi alla fine, Giorgio, però tu vuoi prendere un cane dal canile, giusto? Un carmeticcio? Sì. E quindi mi piacerebbe di più investire soldi nell'addestramento reciproco piuttosto che nella razza. Ok, in tal caso puoi andare in un canile dove ci sono dei volontari preparati, degli educatori cinofili, a cui tu racconterai questo tuo sogno e loro ti daranno un cane. Speriamo. Che è adatto. Speriamo che siamo preparati, è adattabile. Non tutti appunto, devi andare in un canile dove ci sono volontari preparati. In tal caso mi richiami oppure se no ci fai sapere, però dovrebbe essere più o meno grande come per poter viaggiare, che tipo di cane? Ma io direi massimo 25 kg per fare un viaggio del genere. Mi sembra tanto anche. Forse anche massimo, infatti. Forse io anche pensavo sui 15 kg. 15-20 va benissimo. Ecco, forse più piccolo, ancora una dozzina di chili potrebbe anche andare bene, però effettivamente perché se c'è qualche difficoltà e bisogna tirare su, incomincia a essere un problema. Sì. Perché la montagna è tutta, io non ho intenzione di fare vette, non ho intenzione di fare scalate, però la montagna è piena di sorprese. Anche un sentiero che è franato un attimino, che bisogna passare in difficoltà. Bisogna che reciprocamente... Ma tu il tragitto lo sai già? Hai già le idee chiarissime sul tragitto da fare? Per il 90% sì. Ok. Senti Giorgio, guarda, grazie per adesso. Allora, ci teniamo in contatto. È stato bellissimo condividere con te questo tuo sogno. Progetto, questo tuo che sogno. Che è un rito di passaggio. Non è escluso che ti richiamiamo per le prossime puntate. Voglio saperne di più. Grazie Giorgio. Se potete aiutarmi con qualcuno su Bologna che possa... Per adozione? Certo. Sì. Va bene, ti faremo sapere, adesso ti mandiamo una mail. Grazie mille intanto. Grazie ciao, Giorgio. Ciao, grazie, grazie buona Giorgio, domenica. Con questa atmosfera di sogno salutiamo tutti e ci risentiamo domenica prossima. Ciao da Angelo Vaira e Rosetta Celentano. Ciao, grazie.